e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. E buonasera, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento. Sono in compagnia di Chiara e Alessio. Buonasera ragazzi, come va? Ciao. Tutto bene. Tutto bene? È la prima volta che siete al convento? Sì, sì. Come vi state trovando? Benissimo. Benissimo. Questa è la nostra radio, e chiamata anche confessionale di grande sorella. Come potete vedere, io sono la sorella, sono Valentina della radio del Risto Rante del convento. E cosa mi raccontate? Di dove siete? Siamo di Livorno, siamo in vacanza qua a trovare mia sorella che si è appena trasferita da Livorno appunto per lavoro, e quindi ci siamo presi questa piccola vacanzina per i contatti. Ci sta. Una gita fuori porta. Ogni tanto ci sta proprio da Dio, soprattutto prima delle feste di Natale, è proprio perfetto, diciamo. E la bambina che vedo lì, come si chiama? Chanel. Wow. Come sei bella, Chanel! È la nostra nipotina, siamo venuti a trovare principalmente lei. Diciamo che c'è, ci sta, avendo la non così vicina, quindi quando vieni certo, tutto è concentrato. È vero, ci sta. E cosa fate nella vita? Io sono consulente finanziario. Wow! E io sono addetta al controllo visivo in un'azienda metalmeccanica. Bei posti tutti e due lavori, complimenti! Grazie. E io sono bidella, diciamo, ma nel tempo libero mi piace stare qui in compagnia al convento. È sempre bello comunque. Qui è... entri qui dentro e trovi un'altra area. Consigliatissimo, direi. Sì. Ditemi voi, perché potete dirmi che sono di parte, invece noi diciamo che... Noi siamo esterni, bellissimo posto, bellissima gente, ottimo personale, consigliatissimo. Essendo di passaggio siamo imparziali. Perfetto, allora. Allora, perché mi stavi parlando di tua sorella, sì, poiché noi siamo in diretta, vorresti fare una dedica e scambiare due parole per tua sorella? Ci sei? Sì, ci sono. Dai. Diciamo che questo cambiamento è stato molto duro, e dopo tanti anni passati insieme è stato un duro colpo al cuore, però diciamo che se va a stare meglio, siamo tutti meglio, quindi le auguro il meglio dalla vita, a lei, alla mia nipotina e al mio cognato, e niente, quindi così finito, se no mi emoziono e inizia ad uscire le lacrime, è meglio per farsi prima, dai. Va bene ragazzi, io vi lascio proseguire la serata fuori a ballare, a divertirsi. Sì, volentieri. E è stato un piacere. Grazie. Alla prossima, allora. Grazie. Va bene. Grazie. Ciao. Mille, ragazzi. Ciao. Oh, bongo.